5 e. Ascolta e rispondi. Vuoi uscire? No, non voglio uscire. Vuoi entrare? No, non voglio entrare. Volete venire con noi? No, non vogliamo venire con voi. Volete cambiare la prenotazione? No, non vogliamo cambiare la prenotazione.